Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Bologna. Mercoledì ore 10.30 è l'orario in cui inizia una trasmissione che si chiama Città Fujiko Live Club, che si propone di farvi ascoltare per un paio d'ore musica registrata dal vivo, rigorosamente ufficiale, e di ogni epoca e di quasi ogni genere. E Città Fujiko Live Club inizia sempre con una novità, ed oggi è una novità veramente molto interessante, ad opera di una band che non è valutata secondo me come dovrebbe. Pensate che Kurt Cobain, l'indimenticato leader dei Nirvana, la citava come una delle band più influenti in assoluto, anche su di lui, e quindi questo dà un certo lustro ai Pixies, di loro che sto parlando. È un quartetto che arriva da Boston, è stato attivo dal 1986 al 1993, poi si è riformato nel 2004, tuttora ai nostri giorni, è attivo, vivo e vegeto. Ultimamente i Pixies hanno ripreso, diciamo, la moda che fa sì che vengano riproposti integralmente degli album live, e loro l'hanno fatto negli ultimi tour mondiali e anche europei, e poi hanno pubblicato appunto queste versioni live dei loro dischi. Oggi abbiamo la riproposizione come novità di ben due dischi dei Pixies. Il primo è Bossa Nova, che è stato originariamente pubblicato nell'agosto del 1990. Il secondo invece si chiama Trompe Le Monde, scusate la pessima pronuncia, ed è del settembre del 1991. Sono esattamente il terzo e il quarto album in studio della band. Gli altri due, i primi due, sono già stati pubblicati nella versione live. Questo doppio dischetto, che appunto si chiama Bossa Nova Trompe Le Monde Live, è stato registrato nel corso del tour europeo del 2004, ma non è dato sapere esattamente dove e quando. La band, come vi dicevo, è capitanata, è una band molto, molto aggressiva a volte, è capitanata da Black Francis, che è un personaggio a sé stante. Difatti, fra le altre cose, il periodo di chiusura, diciamo, del marchio Pixies, quello dal 93 al 2004, era dovuto al fatto che Black Francis ha avuto una propria carriera solista, che adesso è in parallelo con quella della band. Comunque, dopo tutte queste chiacchiere, ce l'andiamo ad ascoltare. La prima cosa ce l'ascoltiamo naturalmente da Bossa Nova, un brano dei Pixies che si chiama Veluria. shine of the oven. We will bathe in the shine of the oven. We will bathe in the tides of the summer. Si chiama Veloria il brano che ci siamo ascoltati, e come tutti i brani dei Pixies dura abbastanza poco, e anche nella versione live è molto simile a quelli in studio, non ci sono grandi improvvisazioni nella musica live dei Pixies, che come detto in precedenza è un quartetto, tuttora un quartetto, che ha sempre avuto la caratteristica di avere una bassista, cioè una ragazza che suona il basso. Inizialmente quello originale si chiama Kim Deal, che però ha abbandonato dopo una serie di litigi, pare anche furibondi, con Black Francis, e da allora sono succedute diverse bassiste. Al momento suona con loro Emma Richardson, che era la bassista di una band che a me piace molto, che si chiama Band of Schools, però tuttora viva e vegeta la Band of Schools, e Emma Richardson, diciamo in ferie dalla sua band principale, suona con i Pixies. E ci sono tantissime bands che hanno una figura femminile come bassista, e ce ne ascolteremo alcune in questa prima parte della trasmissione, e ad iniziare non può essere che lei, quella che non so esattamente se sia la prima, ma sicuramente è stata la prima molto famosa. Si chiama Tina Weymouth, era la bassista dei Talking Heads, ha fondato i Talking Heads insieme a David Byrne, insieme a suo marito Chris Franz, e poi insieme al marito ha fondato anche in Tom Tom Club, una band che ha avuto molta fortuna nell'ambito della musica dance. L'album che ci andiamo ad ascoltare si chiama The Name of This Band is Talking Heads, il primo di quattro album dal vivo, è diviso in due parti, la prima che va dal 1977 al 1979 e la seconda dal 1980 al 1981, che documenta anche il tour che li portò qui a Bologna nel 1980. Il brano che ci andiamo ad ascoltare non può essere che uno, registrato al Northern Studio della WCOZ Radio di Minor in Massachusetts il 17 novembre 1977. Il brano naturalmente si chiama Psycho Killer, Tina Weymouth and Talking Heads.

Altra bassista storica, la fondatrice, insieme al colui che sarebbe poi diventato suo marito, si chiama Tarzan Moore, lei invece si chiama Kim Gordon, bassista cantante appunto degli Sonic Youth, che poi negli ultimi anni della band che è nata nel 1981 ma poi si è sciolta nel 2011, negli ultimi anni, dicevo, dal basso è passata alla chitarra, ma in questo brano che ci siamo ascoltati è al basso, perché questo brano fa parte della ristampa di un album che si chiamava Daydream Nation, uscì come doppio album nell'ottobre dell'88, ma è stata ripubblicata come doppio CD nel giugno del 2007. Il secondo ha un sacco di brani dal vivo registrati in diverse location. Quello che ci siamo ascoltati si chiama Cross the Breeze, è stato registrato al Noise Now Festival alla Philipshalle di Düsseldorf in Germania il 27 marzo 1989. Kim Gordon and Sonic Youth. Calmiamo un po' le acque dopo il noise degli Sonic Youth, insieme a un trio molto tranquillo, trio che veniva da Cambridge, è stato attivo poco, dal 1987 al 1991. Si chiamavano Galaxy 500 e nel proprio organico la bassista si chiama Naomi Young. Hanno fatto 4 album in studio, di cui 2 postumi, e 3 live, dei quali l'unico fatto durante la loro vita è questo che ci andiamo ad ascoltare. Si chiama Copenhagen, è stato naturalmente registrato nell'omonima città danese e è stata poi trasmessa dalla radio di stato danese il 1 dicembre del 1990. Ce l'andiamo ad ascoltare, il brano che ho scelto per voi si chiama Sorry, loro si chiamano Galaxy 500 e lei invece Naomi Young. Anybody home? You don't know me, but I know you, and I've got a message to give to you. Here come the plans. We'll be right back. I said, okay, who is this really? And the voice said, this is the hand. The hand that takes. This is the hand. Neither snow nor rain, nor gloom of night, shall save these couriers from the swift completion of their appointed electronic arms. potremmo tranquillamente definirla una freelancer. Sto parlando di Gail Ann Dorsey, grandissima bassista, arriva da Filadelfia, freelancer perché non è una band fissa, ha partecipato a un'infinità di album con diversissime, tantissime bands. Qui l'abbiamo insieme a David Bowie, che ha registrato questo album che si chiama Look at the Moon al Phoenix Festival del luglio del 1997. E verso la fine del concerto David Bowie concede, diciamo così fra virgolette, a Gail Ann Dorsey la ribalta con questa versione di Yo Superman di Laurie Anderson, che è veramente molto molto intrigante e anche abbastanza lunga. Ma rimaniamo in tema di covers e in tema di David Bowie, perché è una cover che a me piace tantissimo, di Space Oddity, il classico, super classico del grande Bowie, e ce ne sono tantissime di covers di questo brano, ma questa è particolarmente bella. Abbiamo Nicole Fiorentino insieme agli Smashing Pumpkins, lei è la terza bassista della band, terza bassista femminile, poi ce ne sono stati altri maschili, e naturalmente sapete che gli Smashing Pumpkins vengono da Chicago e Billy Corgan è il leader. Hanno fatto diversi album live, questo si chiama Oceania Live in New York City, è stato registrato proprio nella città della Grande Mela, come si suol dire, al Barclays Center di Brooklyn, fra parentesi, il 10 di dicembre del 2012. Ce l'andiamo ad ascoltare, un classico, Space Oddity, loro sono Smashing Pumpkins e Nicole Fiorentino. floating around the tin can. Oh, above the moon, planets of this blue, and there's nothing I can do. Direi che questo è il brano che ha reso famose le Hall in tutto il mondo, già lo erano naturalmente, ma l'inserimento di questa celebrity skin nel film Io ballo da sola, in una delle scene principali del film Io ballo da sola, ha portato veramente tanta fortuna a questa band, che è solitamente per tre quarti femminile, capitanata, come certamente molti di voi sapranno, da Courtney Love, la vedova di Kurt Cobain, ma all'interno del quale, appunto, essendo per tre quarti femminile, sono alternati diverse bassiste, e una di queste è Melissa Ofdermauer, una ragazza che arriva dal Canada, che oltre a suonare nelle Hall dal 1994 e fino al 1999 ha suonato anche con gli Smashing Pumpkins e tanti altri, e ha avuto anche una carriera solista abbastanza fortunata. Qui abbiamo le Hall, appunto, con una edizione limitata del CD che si chiama appunto Celebrity Skin. Nel secondo dischetto ci sono sei brani dal vivo registrati in diverse occasioni. Quello in particolare che ci siamo ascoltati è stato registrato al Big Day Out Festival a Sydney in Australia. Il Big Day Out è uno dei festival più conosciuti, più noti, più grandi, più belli e migliori australiani. Il tutto è stato registrato il 23 gennaio del 1999 ed è appunto un brano di grandissimo successo. A concludere questa piccola rassegna di ragazze che sono al basso in bands, ce ne rimangono fuori tantissime, magari ci sarà un'altra occasione. Dicevo, a concludere arriva un'altra che potremmo definire come freelancer, si chiama Sarah Lee, ha suonato con diverse bands, cito la League of Gentlemen, ce li siamo ascoltati la scorsa settimana, B-52, Zanny DiFranco, Indigo Girls, e anche e soprattutto per quel che ci riguarda con Gang of Four, grande band che non ha avuto il successo che meritava. Il primo album ne ha avuto tanto, dopo sono un po' caduti nel dimenticatoio. Il brano che ci andiamo ad ascoltare fa parte di un album che si chiama Live at the Palace. È stato registrato nell'omonimo locale di Hollywood, Los Angeles, California, il 4 e 5 maggio del 1984. Un classico Gang of Four insieme naturalmente a Sarah Lee. Il brano si chiama Paralyzed. Good at what I did. testament to Ruth. And I'm the Duke. Seconda parte di Città Fujiko Live Club, siamo al 29 ottobre, ultima trasmissione di questo mese del 2025 e abbiamo iniziato la seconda parte come sempre con la novità che vi propongo quest'oggi, la riproposizione live di due album dei Pixies, Bossa Nova e Tremble Monde. Il brano che ci siamo ascoltati è proprio la title track del secondo, appunto Tremble Monde. Mi scuso ancora una volta per la pronuncia, due album che sono stati suonati integralmente dal vivo nel corso del tour europeo del 2024, non è dato sapere esattamente dove né quando. E Pixies, come ho detto in precedenza, una band che pochi ricordano ma che è stata molto molto influente nel panorama alternativo musicale, soprattutto americano. E come sempre nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Record Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni. Ancora una volta tantissime cose e ancora una volta so che sono tedioso, il criterio di scelta è un brano per ogni decade. E iniziamo dal 1976 insieme a un doppio long plane che si chiama Traveling Shoes. È il primo album live di un personaggio che si chiama Elvin Bishop, personaggio che ha attraversato la musica rock americana fin dal 1963, chitarrista e cantante, ha suonato per anni con la Butterfly Blues Band e poi ha fondato il suo Elvin Bishop Group, al quale ha attribuito appunto Traveling Shoes, il doppio long play che ci andremo ad ascoltare. Fra l'altro lui ha suonato anche in diverse occasioni sempre come ospite con i Grateful Dead, con l'Hammond Brothers Band e tanti altri. Sono un personaggione che però è direi totalmente sconosciuto alle nostre latitudini. Questo album, come vi dicevo, è stato registrato in diverse occasioni, questo in particolare che ci andiamo ad ascoltare è la title track, Traveling Shoes appunto, è stato registrato a Roxy di Los Angeles il 29 ottobre del 1976, Elvin Bishop Group. All right. get somebody's baseball bat and tenderize again. Thank you. Roxy di Los Angeles, 29 ottobre 1976, Elvin Bishop e la sua big band suonano quella sera e registrano alcuni brani che saranno poi inseriti nell'album che si chiama Traveling Shoes, come il brano che ci siamo ascoltati da questo chitarrista cantante che viene da Glendale, California, e che è veramente stato un artefice della musica rock non solo californiana, non solo americana, ma di tutto il mondo. Da Roxy, cioè da Los Angeles, ci trasferiamo dall'altra parte degli Stati Uniti, sull'Oceano Atlantico stavolta, esattamente a New York City. Qui abbiamo un altro grande chitarrista, un altro grande cantante, un personaggio che ha fatto la storia, la storia della musica folk rock britannica. Si chiama Richard Thompson, viene da Notting Hill, Londra naturalmente, e nel 1967 ha fondato il Fairport Convention, che ha poi lasciato nel 1971 per iniziare una carriera solista molto fortunata dal punto di vista della critica, un po' meno oserei dire dal punto di vista delle vendite, ma è quello che si chiama un musicista per i musicisti, infatti ha influenzato tantissimi tantissimi chitarristi. E il brano che ci andiamo ad ascoltare è tratto da un triplo CD, da un'antologia con brani dal vivo inediti, si chiama Watch in the Dark, e il brano in particolare, uno dei suoi classici, sto parlando di Richard Thompson naturalmente, che è stato registrato al Bottom Line di New York City il 29 ottobre del 1983, si chiama Calvary Cross, Richard Thompson. fatto molti album live nel corso della propria carriera, Richard Thompson, tutti molto interessanti, soprattutto quelli elettrici, quelli magari acoustic solo, sono un po' più impegnativi all'ascolto. Questa invece è un'antologia tripla con dei brani inediti dal vivo, si chiama Watch in the Dark, e il brano in particolare che ci siamo ascoltati, registrato al Bottom Line di New York City il 29 ottobre 1983, si chiama Calvary Cross. For three hard winters I held it in. Una band che a me piace tantissimo, si chiamano Violent Femmes e sono un trio che arriva da Milwaukee e sono attivi dal 1981 con qualche interruzione, una strumentazione minimale per dei pezzi veramente accattivanti. Narra la leggenda che loro stessero facendo i buskers all'angolo di un teatro nel quale la sera avrebbero suonato i Pretenders, passò di lì l'allora chitarrista dei Pretenders, che rimane talmente impressionato da dire Chrissy Hayden di questi tre ragazzi. Chrissy Hayden li invitò ad aprire il loro concerto quella sera, da lì ha preso il via una carriera molto molto luminosa per quel che riguarda Violent Femmes. Wisconsin è il loro primo di 5 album live ed è stato registrato in diverse occasioni. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è stato registrato al Hollywood Theater di La Crosse, nel Wisconsin, il 29 ottobre del 1998. Il brano è tutto un programma, il titolo anzi è tutto un programma, e loro sono Violent Femmes, il brano si chiama American Music. Do you like American music? I like American music. Don't you like American music, baby? Too many drugs, I've been too many drugs. And I wasn't gonna do this, but since we're in Jersey, I'm gonna do it. Well, they blew up the Chicken Man in Philly last night, and they blew up his house too. Yeah, them boys on the boardwalk getting ready for the fight. Gonna see, yeah, what them racket boys can do. And there's trouble that's coming in from out of state, and the DA can't get no relief. Yeah, there's gonna be a fight out on the promenade, and the gambling commission's hanging on by the skin of his teeth. Yeah, baby, everything dies, yeah, that's a fact. Maybe everything that dies someday comes back. So put your makeup on, fix your hair up ready, and meet midnight in Atlantic City. Meet midnight in Atlantic City. Meet midnight in Atlantic. One, two, three, four. È un multistrumentista che arriva dal New Jersey, si chiama Pete Yorn, è stato premiato tantissimo col suo primo album, un grande successo che si chiama Music for the Morning After, scritto tutto attaccato. Però poi non ha più saputo ripetere il successo di questo primo album. Come avete sentito, essendo in New Jersey, ha preceduto la sua Murray con un mignon di Atlantic City di Bruce Springsteen, e non potevo non citare il film che dovete imperativo andare a vedere, perché è veramente bellissimo. Dirò solamente che non è un film musicale, è un film che parla appunto della vita interiore di Bruce Springsteen. Chiusa parentesi Nebraska, il brano che ci siamo ascoltati, appunto questo medley fra Atlantic City e Murray, è stato registrato in quel del New Jersey, naturalmente, praticamente a casa di Pete Yorn al Community Theater di Morristown il 29 ottobre del 2003, e lo ripeto, il brano si chiama Atlantic City / Murray, uno di Bruce Springsteen e l'altro di Pete Yorn, titolare di questo doppio dischetto che si chiama Live from New Jersey. Live on shame. You. Altra band che amo tantissimo, Tedeschi Trucks Band, i due coniugi Susan Tedeschi e Derek Trucks, insieme dal 2010 con una mega band di 14, 15, 16 elementi a seconda dei casi. E il loro secondo album è un album dal vivo, il primo di una serie che hanno fatto poi nel corso degli anni, che è stato registrato in diverse occasioni. Il brano che ci andiamo ad ascoltare si chiama That Did It, ed è stato registrato al Fairfield Theater di The Klein è il centro culturale dove è situato il Fairfield Theater, il tutto a Bridgeport nel Connecticut, il 29 ottobre del 2011. Tedeschi Trucks Band, questo brano è quello che apre il secondo dischetto di questo ottimo ottimo album live che si chiama Everybody's Talking. Tedeschi Trucks Band. Rich folks yard, and anybody can tell you. 29 agosto, auguri, 29 ottobre 2011, siamo a Bridgeport in Connecticut in concerto tedeschi Trucks Band con questa That Did It dall'album Everybody's Talking. E a concludere invece Ricordi Today di oggi, ma anche Città Fujiko Live Club, arriva una band dal South Carolina, si chiamano Need to Breathe, tutto attaccato, e sono attivi dal 2001, sono stati fondati dai due fratelli Reinhardt, poi uno dei due, Bo, se n'è andato nel 2020 lasciando l'altro a guidare la band, e sono i cosiddetti alfieri del cosiddetto Christian Rock. C'è un rock che ha testi pseudo-religiosi, religiosi, oserei dire, più che religiosi, tutti incentrati appunto sulla religione, sul cristianesimo, che negli Stati Uniti è un termine molto vago, e però hanno un molto successo, come sentirete dal pubblico. Hanno fatto 5 album dal vivo, questo si chiama Live from Bridgestone Arena ed è stato registrato a Nashville il 29 ottobre del 2021. Tutto per concludere appunto Città Fujiko Live Club, che è la trasmissione che ogni mercoledì per un paio d'ore si occupa di farvi ascoltare musica ufficiale registrata dal vivo di tutte le epoche, di quasi tutti i generi. Ci lasciamo così con le Need to Breathe. Vi ringrazio naturalmente per l'ascolto. L'appuntamento è per mercoledì prossimo, stesse frequenze, 103.1, oppure il DAB, oppure il web, con l'apposita app che potete tranquillamente e gratuitamente scaricare dal sito della radio. Grazie di nuovo per l'ascolto. Need to Breathe, il brano si chiama Great Night. Got this fever, burning inside. Got this fever, oh, let's have a game.